Buongiorno a tutti, studiamo ora delle halakhot che sono relative a questo Shabbat, se Dio vuole il prossimo Shabbat, che avrà qualcosa di particolare. Abbiamo studiato nella Mishnah, nel trattato di Megillah, che nel periodo tra Purim e Pesach ci sono quattro momenti, quattro Shabbatot, in cui si legge un secondo Sefer e quattro Parashiyot particolari. E l'ultimo di questi è la Parashat HaChodesh, la Parashat nella quale si descrive il primo comandamento, la prima mitzvah che gli ebrei ricevettero ancora mentre si trovavano in Egitto, ed è l'istruzione di iniziare a santificare i mesi, a segnare il tempo in una maniera distintiva ebraica. E l'annuncio di questa mitzvah, diciamo così, che annuncia il primo mese, il mese di Nissan, la prima volta che si è fatta questa mitzvah, già appunto lì in Egitto, è sempre letto nello Shabbat che precede il mese di Nissan. Qualora lo Shabbat che precede il mese di Nissan fosse uno Shabbat normale, allora si legge la Parashah della settimana e su un secondo Sefer si legge la Parashat HaChodesh. Nel nostro caso, quest'anno, 5778, in cui lo stesso Shabbat è anche il Rosh Chodesh di Nissan, quindi in questo caso non è lo Shabbat che precede il mese di Nissan, ma è lo stesso giorno in cui viene il primo giorno, il Rosh Chodesh di Nissan, che è un unico giorno, noi leggiamo il Parashat HaChodesh nel Rosh Chodesh stesso, quindi di Shabbat stesso, essendo anche il giorno di Rosh Chodesh, in cui ci sarebbe comunque il Sefer per la lettura del Musaf di Rosh Chodesh, la Parashah di Rosh Chodesh che si legge ogni mese a Rosh Chodesh. Quindi abbiamo questo Shabbat, se Dio vuole, tre Sefarim che vengono letti, vengono portati fuori dall'Echal. Il primo è la Parashah della settimana, nel nostro caso sarà Vayikra. Il secondo è la Parashah di Rosh Chodesh. Il terzo è la Parashah di HaChodesh. L'ordine non è a caso, è perché si legge prima la cosa più comune e poi la cosa meno comune. Quindi prima abbiamo come primo ordine la Parashah della settimana, appunto Vayikra in questo caso. Poi abbiamo la Parashah di Rosh Chodesh, che è quella che è più comune perché si legge ogni mese. Poi abbiamo quella che leggiamo solamente una volta l'anno, ed è la quarta delle quattro Parashiyot, come dicevo, la Parashat HaChodesh. Abbiamo anche una Haftarah relativa alla Parashat HaChodesh, ed è quella che prevale, anche se secondo alcune usanze tra Sefarditi ed altri si legge per non venire a meno, diciamo così, non trascurare il giorno di Rosh Chodesh, si legge anche dopo aver letto la Haftarah relativa alla Parashat HaChodesh, anche il primo e l'ultimo versetto della Haftarah che sarebbe stata relativa a Rosh Chodesh. Quindi questo faremo nel prossimo Shabbat. Ora, se qualcuno dovesse aver sbagliato, per esempio nella lettura del Sefer di questo Shabbat, e avesse letto prima Parashat HaChodesh, prima di leggere la Parashah di Rosh Chodesh, quindi ha letto la Parashah della settimana, poi subito la Parashat HaChodesh, allora in quel caso è chiaro che sul terzo Sefer si leggerebbe la Parashah di Rosh Chodesh, perché non si eviterebbe di leggerlo, ma cosa cambierebbe? Cambierebbe l'Haftarah, essendo l'ultimo Sefer, quello del Maftir, quello che precede la lettura dell'Haftarah. Di conseguenza si leggerebbe in quel caso non l'Haftarah di HaChodesh, perché HaChodesh è stato letto per sbaglio sul secondo Sefer, ma si leggerà l'Haftarah di Rosh Chodesh, che inizia col versetto Hashamayim Kisi. Nel caso si trattasse invece di un anno in cui c'è un secondo mese di Adar, quindi il primo mese di Adar e il secondo mese di Adar, abbiamo studiato sempre nella Mishnah del trattato di Megillah che il discorso delle quattro Parashiyot vige durante il secondo Adar, non durante il primo. Se per sbaglio qualcuno avesse letto le quattro Parashiyot durante il primo mese di Adar, per sbaglio, non si esce l'obbligo della mitzvah e bisogna rileggerle tutte e quattro nel secondo mese di Adar andando verso Nissan. Ora vediamo qualche halakha che è legata al mese di Nissan, oltre appunto a queste quattro parashiyot che sono quelle che vanno verso Nissan. Parliamo un attimino di Nissan stesso. Già nel momento in cui inizia Nissan abbiamo una halakha particolare, che è quella che si omette la lettura del Tachanun durante la tefilah dei giorni feriali. Tutto il mese di Nissan è considerato semifestivo. Per quale motivo? Perché già dall'inizio del mese di Nissan era un periodo gioioso per Am Israel, visto che il primo giorno di Nissan è il giorno in cui è stato montato e costruito il Mishkan nel deserto. I 12 capi tribù di ognuna delle tribù di Israele hanno poi dedicato e inaugurato il Mishkan, facendo per i primi 12 giorni ognuno una offerta molto importante a nome della propria tribù, e quel giorno per quella tribù era un giorno festivo. Tra parentesi vi faccio presente che l'idea che un giorno festivo esiste quando si fa un'offerta al Beit HaMikdash è stato portato avanti, perché qualora una persona facesse un'offerta, un korban al Beit HaMikdash, oppure anche un'offerta di tipo diverso, per esempio donare della legna per l'uso del Mizbeach nel corso dell'anno, questo giorno per quella famiglia era considerato un giorno di festa. E forse sempre nella stessa parentesi potremmo in maniera meno formale e meno ufficiale dire che il sentimento comunque dovrebbe essere sentito anche oggigiorno, qualora una persona riuscisse a partecipare col proprio denaro, col proprio tempo ad una causa valida, ovviamente di Torah, di Mitzvot, di Tzedakah, allora questo dovrebbe essere considerato per la persona o anche per la famiglia motivo di festa o motivo di gioia. In ogni caso, tornando a noi, questi 12 giorni erano appunto i giorni festivi, e il giorno 13 è come il giorno che segue il Moed, è reso simile al giorno che segue il Moed, e sempre sappiamo che il giorno Isruchag, il giorno dopo i Moedim, si porta un po' della festività del Moed. È una cosa che anche allusa viene appoggiata ad uno dei versetti del Teilim che recitiamo nel Hallel, Isruchag ba'avotim. Ora non approfondiamo il significato specifico, ma in ogni caso consideriamo il giorno successivo al Moed un giorno semifestivo, e quindi questi sono già passati 13 giorni del mese in gioia e in simcha. Il 14° giorno è anche semifestivo, essendo la vigilia di Pesach, è il giorno in cui si porta il Korban Pesach, e ovviamente i 7 giorni successivi sono i giorni di Pesach stesso, quindi sono giorni di festa solenne, Chol HaMoed. Il 22° giorno di Nissan, quindi il giorno successivo a Pesach, per il discorso che dicevamo prima, Isru Chag, è semifestivo anche lui. E quindi la maggioranza dei giorni del mese sono giorni festivi o semifestivi, e i maestri hanno istituito che si vada avanti a considerare tutto il mese giorno festivo, essendo già la maggioranza così. La consideriamo tutta intera una mensilità di simcha e di gioia, e si evita la recitazione del Tachanun. I maestri dicono che anche la futura redenzione, speriamo prestissimo ai nostri giorni, avviene durante il mese di Nissan. La costruzione del terzo Beit HaMikdash avviene nel mese di Nissan, poiché è scritto: a Nissan sono stati redenti dall'Egitto e a Nissan saranno redenti dall'ultimo esilio. Ovviamente non vogliamo limitarlo a Nissan, anche oggi che siamo un po' prima di Nissan accetteremmo la Geulah se venisse oggi, speriamo, ma il mese di Nissan è particolarmente propizio per questa simcha. Tra l'altro, alachicamente, se dovesse venire la Geulah durante Pesach, come la prima volta dall'Egitto, la redenzione è stata il 15 di Nisan, Pesach, se fosse anche adesso, la gioia per festeggiare 7 giorni di festività, come è stato per la costruzione del primo Bet HaMikdash e del secondo e del Mishkan, scusatemi, i festeggiamenti successivi alla costruzione del Bet HaMikdash, se Dio vuole il terzo Bet HaMikdash, durerebbero anche una settimana, ma non la stessa settimana di Pesach, perché non si mischiano due gioie, c'è scritto nell'Alaha, En Me'arvin, Simcha Be'Simcha. E quindi i 7 giorni successivi a Pesach saranno giorni di festa, in quel caso tutti i giorni del mese praticamente di Nisan sarebbero giorni festivi veri e propri. Per rientrare nel discorso della Simcha, della gioia di ogni particolare tribù, dell'inizio dei primi 12 giorni dell'inaugurazione del Mishkan, molti hanno l'usanza di leggere ogni giorno, partendo dal primo giorno di Rosh Chodesh di Nisan, dal primo giorno di Nisan, che appunto è Rosh Chodesh, il brano nel Sefer Torah, la Parashah di Nassò, che dettaglia la donazione, l'offerta di ogni capo tribù di quel giorno. E questo molti usano farlo dopo la Tefilah. Alcuni la leggono dal Sefer, ma senza Berakah, ma la maggior parte delle usanze seguono, appunto la maggior parte dei riti seguono l'usanza di leggerlo dal libro, dal Sidur o dal Chumash. Si può trovare anche nel libro di Tefilah, nella lettura del Sefer di Hanukkah, che riprende la stessa Parashah. Ed è proprio indicato il primo giorno e il secondo giorno, e si segue semplicemente i giorni del mese di Nisan, leggendo ogni giorno il relativo capotribù e la sua offerta. Ora, tornando all'inizio di Nisan, in realtà ancora prima di Nisan, la halakha è, e questa è una delle cose che sono state trasmesse nel Mishnah e nel Talmud, e che i maestri dicono che è stato istituito questo da Moshe Rabbeinu, 30 giorni prima della festività già si inizia a spiegare e da istruire e a rispondere a delle domande e dei dubbi che riguardano la festa che arriva tra 30 giorni. Quindi in realtà da subito da dopo Purim, che sono esattamente 30 giorni prima di Pesach, si inizia già a parlare e ad approfondire, a chiedere, a rispondere sulle domande che riguardano Pesach. In particolare questo è importante per Pesach, perché Pesach è una festività in cui ci sono moltissime halachot, moltissimi dettagli ai quali bisogna fare attenzione nel prepararsi appunto per la festa di Pesach, e nelle prossime lezioni di halakha noi inizieremo ad approfondire le halachot di Pesach stessa.